che torna anche l'8 dicembre, ci ha detto, giusto? Sì, esatto. Bene, che si occupa di cose utilissime, al contrario di tutti noi che siamo specializzati in cose che non servono a un tubo, e quindi l'8 dicembre avremo la puntata utile. Ma vuoi dirci solo metà nome? Cioè, tipo metà Gabrus. Sì. Apposta, basta. Basta. Gabrus. Fine. Okay. Gabrus. Fine. Lo scriviamo qua. E basta. Ta ta ta ta. E c'è un bel bianco. Dicevamo? Non abbiamo niente? No, no. Non abbiamo. Non abbiamo. Ah, ma voi stavate aspettando me. Certo. Sì. Ti davamo tempo per, altrimenti comincio subito. No, comincia, prego. Va bene, allora. Da chi cominciamo? Facciamo lo stesso ordine, assentono. Alessia Prosdocimo e Dalia Arminise, siete qua in qualità di un ospite unico, giusto? Sì. Voi valete per uno, perché... Siamo un'entità unica. E sì. cosa mi rappresentate? Un bellissimo laboratorio autogestito in zona universitaria. Wow. Sprint. Si chiama così? Sprint. È una sigla? No, è print, ma sprint. Ah, sprint nel senso di sprintare. Stampiamo, cioè, ma più veloce. Sprintare più veloce, però anche deprint, come invece di la S privativo. Esatto. Devo allontanare. No. Speed print. Esatto. Speed print o S print. Sì, è un laboratorio di serigrafia popolare. Che si trova a Split, che è uno spazio occupato. Vabbè, sì, perché volevamo confondere un po' le idee. Sprint. E si trova in zona universitaria. Più precisamente in via San Giacomo 11. E quindi, fine. Per andare e basta. Basta. È lì? Ok, basta, finito. Ciao. Io sbaglio di più. Via San Giacomo. Ho scritto tutto. Ho scritto San Giacomo. Sì, forse neanche. In realtà San Giacomo. Hai scritto Sprit in via San Giacomo 11. Domandati perché io non vengo mai agli spritz. Perché non ne ho bisogno. Esattamente. E cosa si deve fare per partecipare? Cioè, è aperto solo a voi o? No, beh, è infatti, un luogo che si può sono frequentare. Sono qui per pubblicizzare una cosa che è chiusa al pubblico, mi sembra. Ah, sì, esattamente. Questo è perfettamente. Vogliamo sapere tutto. Allora, noi ci occupiamo di grafica d'arte, principalmente nel senso che facciamo grafica d'arte in due. Perché diciamolo, voi siete anche studentesse di Pasquini. Ecco, sì, siamo state. Siete state e siete sopravvissute anche a questo. Sì. Cioè, siamo Alessia Prosdocimo, poi a me e Pasquini insieme. Sì, no, cioè, non so come sia stato possibile. Complimenti, c'è un premio per questo. Godo, sì. Fantastico. Alla grande. Quindi al momento ci siamo occupate sia di linoleografia, quindi stampa su linoleum, per rendere accessibile a tutte le persone interessate. Sono tutti aperti come corsi, come workshop. Al momento abbiamo fatto linoleum. Incisione di rulli. Vero. Appunto rulli di gomma piuma. Mm-hmm. E serigrafia, che in realtà è il laboratorio fisso, esatto, diciamo. Il laboratorio principale. Abbiamo costruito il bromografo, la camera oscura, il forno. Che bello. Abbiamo tutto nel bagno. Forno perché, scusa, il forno per asciugare i telai. Ah, per sì, quindi non un forno da. No, perché forno. Poi dopo passando nell'ordine anche pizzeria. La voce forno. Sì, anche pizzeria. Non è vero. Avevo capito. Il bromografo cos'è invece, per tornare a? È lo strumento che serve per incidere i telai. Okay. Quindi si ingelatinano e poi tramite questo processo con delle luci ultraviolette si incide il telaio ed è pronto per stampare. Poi ovviamente è tutto molto casalingo, nel senso appunto è realmente in un bagno. Naturalmente scopriranno come funziona se vengono al vostro workshop, giusto? Esatto, perché domenica 30 dalle 15 c'è la possibilità 15. di scoprire la serigrafia a un prezzo molto poco costoso, giusto? Sì. Che quanto sarebbe? Offerta libera. Addirittura. Diciamo, per rientrare dei costi dei materiali. Ma che generosità. Diciamo che l'intenzione principale è proprio di questo laboratorio, cioè lo chiamiamo laboratorio popolare proprio perché vogliamo che sia accessibile a tutti e tutte, perché comunque effettivamente la stampa è un laboratorio, un workshop, di solito dei prezzi che non sono tutti accessibili, mentre a noi piace, cioè l'abbiamo aperto con l'intenzione appunto di renderlo... Di allargare. Di allargare. Cosa devo fare? Devo pigiare? Cosa devo fare qua? Anche cioè, andare avanti con... Non lo so, andare avanti con la trasmissione, con le presentazioni. Abbiamo qua di fianco, invece proseguo con il giro, mi hanno distratto, Giovanni Gamberi. E finalmente scopriremo, scopriremo perché, è qui. Perché è qui Giovanni Gamberi, ricercatore del Centro Studi Estremo Oriente, che ha scritto Coxo in cinese per noi. Sì. Esatto, parla correntemente cinese, scrive correntemente cinese, però parla anche italiano. Parla anche italiano. Ci dici qualcosa di più su di te. Chi è Giovanni Gamberi? Io lavoro al Centro Studi d'Arte Estremo Orientale, che è la più ricca biblioteca d'arte cinese e giapponese d'Italia ed è una delle più importanti d'Europa, quindi ho iniziato a lavorare lì molto molto giovane, poi la passione per... Quanti anni avevi esattamente? 16 anni. Sì. Vabbè, dai. Ho iniziato a 16, poi dopo le situazioni mi hanno portato a rimanere lì. Ecco, di solito le situazioni mi hanno portato a rimanere lì. Sono stato via 7 anni a Venezia, poi sono tornato. Dove hai studiato, che me l'hai detto lingua prima, cinese, ma, so, lingua cinese magistrale, sì. Laureato magistrale a Ca' Foscari in lingua cinese. Sì. E poi però fai un sacco di altre cose in realtà. Beh, facciamo corsi di calligrafia perché il mio interesse è nato grazie alla calligrafia, quindi dopo ho trovato una scuola, ho iniziato a fare calligrafia cinese, poi ho trovato il centro e negli ultimi anni ho fatto delle mostre. Adesso l'anno scorso ho fatto una mostra al Museo Medievale che si chiamava Prospettive d'Oriente, al Museo Civico d'Arte Antica di Bologna, ed era una mostra che celebrava l'ingresso di questa collezione nei musei, una collezione di un donatore, Norman Jones, che aveva fatto nell'Ottocento una collezione di stampe di oggetti cinesi e giapponesi. Ho anche visto, alcuni bello. Molto bella la mostra, sì, della collezione Norman Jones. Bella. Posso interrompere tutti? Certo. Puoi farlo. Presti quello? Certo. Volevo dirvi che anche a novembre tornano gli Amarcord Live. E siccome la Simona Pinelli mi uccide se non faccio questa cosa, beh, certo. devo raccontare che ci saranno questi concerti speciali per la prima volta dopo la sua release del 24 ottobre, che l'abbiamo già suonata tipo 3 volte, verrà presentato live il nuovo singolo Il Poeta. Le date sono 26, 28 e 30 novembre, che elencheremo dopo nelle menzioni. Intanto ci ascoltiamo Il Poeta e ringraziamo appunto Simona Pinelli che ce l'ha mandata. Quindi ascoltiamo Il Poeta. Parlami sempre amor, soavemente. Dimmi che il tempo mai più ruberà baci, che il desiderio sai non ci renda mai sazi. Angelica, che si spegne nel sudor, non mi importa proprio niente di sembrarti un po' banale. I poeti sono quelli che non riescono ad amare, ed è per questo che son bravi a raccontare. Guardami sempre amor, intensamente. Che hai, fanno una danza, che meraviglia sei qui nella stanza. tanto stavo già parlando perché dicevo potrei fare questa marchetta mentre stiamo sfumando, esatto, sfumando il poeta, perché anche questa c'è Institution, che non so se lo sapete, ma è un'istituzione non istituzionale che presenta Storia della musica contemporanea, un pacchetto di 8 lezioni online con i massimi esperti della musica, un corso adatto ai professionisti delle arti visive, per cui noi dovremmo fare questo corso. A chi conosce lo sviluppo delle arti del XX secolo e vuole una sintetica ma autorevole informazione anche dello sviluppo della musica, non solo della classica colta ma anche di quella jazz, pop, rock, fino agli ultimi sviluppi digitali. Sullo sviluppo del XXI secolo. Le lezioni sono tenute da alcuni dei massimi esperti critici musicali, per lo più commentatori di Radio RAE e di altri media nazionali come Felice Liperi di fare Night, Andrea Penna di Radio Story Suite. Si dice poi Felice Liperi comunque. Ah, grazie. Ma infatti tu ascolti Fahrenheit. Luca Damiani di 6 gradi, Barbara Tartari della Radio Svizzera Italiana e Fabio De Luca di Planet Rock Suoni Ultrasuoni. Il corso si tiene dal 1 dicembre e tutti i dettagli li trovate domani su coxospaziale.blogspot.com. Insieme a tantissime altre cose. Esatto. Bene. Come per esempio l'indirizzo web del sito del Centro Studi Estremo Oriente. D'arte Estremo Orientale, certo. Esatto. Stavo notando che Giovanni Gamberi ha deciso di fare l'ospite serio, ma adesso poi gli tendiamo delle trappole e lo facciamo scendere da questo piedistallo orientalista. Ma invece Marco Roma non ci ha risposto? Ma come? No, Marco Roma no. Ai, Marco Roma è andato in vacanza. Sì, che ci ha risposto. No, mi sembrava strano che Marco Roma fosse andato in vacanza. No, non va mai in vacanza. Appunto. E ci pensa anche da là. Buonasera. Come buonasera? Al Coxon speciale. Un saluto particolare va a te, Ornella Vanoni. A te che pensi sempre a noi. A noi. Per sempre. Da Marco Roma. Ma grande. No, ma questo no, sei andata in missione. Lisa Migliemi è diventata rossissima. Cioè, no, ma è bellissima. Grazie Marco Roma, mi hai fatto un regalo stupendo. Ma veramente, cioè, siamo commossi da questo doppio tributo di cui ci omaggia Marco Infatti, Roma, perché, sei tutti perché noi. Lisa è triste perché è morta. È morto a Ornella Vanoni. No, guarda, lasciamo perdere, lasciamo che stare. Io sabato ho pianto un'ora e mezza. Addirittura. Ma davvero? Wow. Sì. Vedi? Sì. Hai capito. Vabbè, 91 anni. È un ciclo, no? Cioè, succede. Un grande mito. Grazie Marco Roma. Possiamo. Allora, per distrarci, volevo sapere se l'ospite silente vuole dichiarare qualcosa dopo questi primi 20 minuti di delirio. È tutto fantastico, mi sembra un'ottima dichiarazione. Benissimo. Sono d'accordissimo. Sì, certo, ovviamente siamo noi, ci diamo ragione. Bene, e quindi di cos'altro? Io volevo chiedere qualcosa sulla dichiarazione riguardante la calligrafia. Sono cascata su quella parola e mi è rimasta qua. Approfondisci. Per favore. In Cina la calligrafia è un'arte molto importante, considerata una delle arti maggiori. E tutto, per qualsiasi cosa, si regala una calligrafia, da quando ti sposi, quando hai un nuovo ruolo politico e di carriera, subito una calligrafia. E nel corso della storia è diventata la più importante fra le arti. A Bologna c'è una scuola che è quella che è al Centro Studi, che è l'unica riconosciuta dai cinesi. Che poi è lui. Sì, non sì, sono sì, io sì, che sì. lo tengo il corso, però. No, abbiamo due insegnanti italiani che però sono gli unici che. E facciamo mostre in Cina, Corea. Io non saprei scrivere in un'altra lingua, però in italiano la calligrafia, l'hand lettering. Sì, è un altro approccio. Però è sicuramente diverso. Sì, come la musica un po'. Non è necessario sapere il cinese, basta entrare in questi spartiti. Sì. Wonderful. Il mondo. Cinzia è emozionata. Vieni. Sì, quando è il prossimo corso? Le prime domeniche di ogni mese. Che disdetta, fino alla metà febbraio sono impegnata. Ma cioè, di domenica a che ora? Dalle 10 alle 16. Io dalle 10 alle 14. Naturalmente non è che uno si presenta lì, bisogna iscriversi. Poi si fa la lezione di prova, poi se piace si va avanti. Modello cinese tutto il giorno. Uno potrebbe fare solo la lezione di prova e poi... Forse sì. Poi valutare. E quanti studenti prendete? Noi ne abbiamo alla scuola di Bologna 20, poi ce l'abbiamo a Firenze, Milano, cioè tutto sparso. A Firenze dov'è? A Firenze è a casa dei miei maestri. Dei miei maestri, perché sono pochissimi quelli che di Firenze. Che però non sappiamo, cioè è un indirizzo segreto. No, cioè quello devo indirizzo segreto. Cercare quello su indirizzo su di casa, casa no, dei maestri quello, di Giovanni Gamber. Però vi dico, in via Santa Maria Maggiore 1 per Bologna. E gli altri sul sito della scuola, che si chiama FEMO Contemporary Calligraphy. FEMO Contemporary Calligraphy, mamma, lo segno. Ecco. Wow. Segnatelo, che poi domani lo mettiamo su coxospaziale.blogspot.com insieme a tutto il resto. Ma tu scegli un microfono da cui parlare, no, o mi fai dispiace? Aspetta, io parlo a caso, non ti preoccupare. Ma non si scrive così, calligrafi, si scrive ciao, così. Calligrafi. Sono qua. Calligrafi. Sono vicino a te. Stavo anche sbagliando quasi tutto. Bene, quindi siamo pronti per... Venite. Sì, certo. Ma io poi inizio a parlare di cose, di fatti miei, no, naturalmente, certo. Qua, no? Dico, però quando verrai a Firenze, no, si potrebbero portare... Forse lì possiamo portarli, potremmo fare, sì, volendo, sì, vabbè, beh, dopo ci ragioniamo. Questi sono dettagli, sono cose che non riguardano, che interessano, cioè, naturalmente tutti gli ascoltatori. Come il tuo cane. Ah, è questo, vero, è no, questa, vabbè, la raccontiamo nella seconda, sì, vi raccontiamo una cosa della mia infanzia nella seconda metà della trasmissione. Un cane cinese. Oh, ho avuto un cane cinese. Wow. No, che invece Sprint, Sprint da quanto tempo esiste? Cioè Split da quanto tempo esiste e Sprint da quanto tempo esiste? Sapete tutto? Allora, no. Sì, Split è nato durante il periodo post-Covid. Ah, dai. Sì, per un accesso più libero nei confronti, cioè per quanto riguarda l'aspetto. Sì, cosa stiamo... No, perché noi ci... Nessun problema. Va tutto bene. No, tu non ti preoccupare. Va tutto bene. Va tutto bene. È coxo spaziale. Siete... siete al sicuro. In una botte di ferro. Sono Stefano W. Pasquini e state ascoltando coxo spaziale. Coxo spaziale. Quindi Split è nato nel periodo post-Covid per una necessità delle studentesse... di avere comunque uno spazio dove poter studiare, dove poter avere un momento ricreativo che non fosse a pagamento, perché comunque le biblioteche erano chiuse, certo. Non c'erano spazi in cui effettivamente poter da occupare senza dover comprare un caffè, capito? Quindi non era la dinamica di bar, ma era semplicemente la dinamica in cui mi trovo con delle persone, faccio cose senza avere nessun tipo di confine, di limite. Da lì poi è rimasta quindi come appunto un'occupazione, e noi invece siamo nate dopo, da un anno, il 24 aprile avevamo iniziato all'incirca, e abbiamo iniziato con i nostri laboratori, i nostri workshop, subito dopo la morte del nostro... Ridete? Bellissimo. Chi è morto? Evidentemente non una persona a cui volevano molto bene. Delle anguriette. Il collettivo della Palestina, che c'era l'accademia. Che è morto. È morto. Okay. È morto. Che cos'era? Magari diciamo qualcosa per chi non sa. Di cosa si tratta? Vale, magari vogliamo girare il coltello nella piaga. Per me va bene così. Diciamo che l'esigenza era quella di fare politica in militanza, parlare di lotte tramite il mezzo creativo, diciamo, quel mezzo di espressione. E appunto per un anno questa cosa è stata fatta in accademia tramite questo collettivo. E finita quell'epoca, diciamo, avevamo comunque questa esigenza, quindi abbiamo cercato uno spazio dove poterci esprimere e portare avanti questa cosa. Qualcosa mi fa sospettare che questa fine non sia stata proprio un evento glorioso, un tripudio di gioia. Vabbè, dai, come però, vabbè. Le cose cominciano, finiscono. A parte coxo spaziale che sembra non finire mai. Sembra non morire mai nonostante. C'è chi ci spera, ma noi continuiamo. Vicino. Ok, ho capito. E va bene. E in quanti siete in Sprint? 4 gatti, quattro letteralmente 4. Cinque volte. Se qualcuno si prende bene 6, se ci sono le birre 7. Ah, questa ah, è solo 7 con le birre. Sette, sette, perché è il numero perfetto di ogni. Ma perché diciamo che effettivamente non è proprio un collettivo, nel senso non è che abbiamo una riunione settimanale, essendo che si tratta di fare cose pratiche. Alla fine finisce che ci si organizza come ok, io ci sono domani, ah, ci sei anche tu, eccetera eccetera, quindi a parte gli eventi all'esterno non ci sono degli orari di apertura, cioè non è che no, uno può arrivare lì, ci sono allora, gli eventi. Se qualcuno volesse ovviamente può scrivere alla nostra pagina di Split, non Sprint, che da domani sarà sicuramente sul blog, avrà un picco spaziale di follower incredibile. È ovvio, può scriverci, ovviamente ci renderemo disponibili per qualsiasi cosa, però appunto sì, non abbiamo una riunione calendarizzata. No, poi ci vediamo, sì, ci vediamo domenica al workshop, no? Soprattutto. Perché, voglio dire, un workshop di serigrafia a offerta libera, come si, quale come migliore si può, occasione? Esatto. Ma e quanto durerà questo workshop? Bisogna stare lì fino a mezzanotte? Sì. Almeno mezzanotte. Almeno mezzanotte. Dalle 15. E poi se dalle ti lasciano 15, andare no, via. No, dalle 15 alle, qui, alle 15, 15 del giorno dopo. Sì. Sì. Beh, a me è capitato di rimanere intrappolata in un workshop di fotografia su pietra finché non veniva bene questa foto. Io sono stata costretta a rimanere a stampare su queste pietre e sono andata via un'ora improbabile perché appunto però questo potrebbe accadere, sì, potrebbe accadere, potrebbe anche accadere con la anche il 30 perché oltre alla serigrafia c'è una bellissima mostra. Ah, contemporaneamente, giusto, parallela, contemporanea e contemporaneamente. Sì, questo da dire perché noi questo workshop lo faremo in collaborazione con l'archivio dei movimenti di Via Vesella, che perché non conoscesse. Lo ridiciamo che ho capito non benissimo. Archivio dei movimenti dei di Via movimenti Vesella. Ah, okay. Che era questo storico posto occupato di quando avevo la vostra età io, eccetera, e che hanno un archivio, evidentemente, cosa che io non sapevo. E effettivamente un archivio, sì. Ok. Visti i passaggi di vari movimenti, sedi, di giornali, manifesto, lotta continua, eccetera, hanno raccolto un sacco di materiale negli anni e dal 2020 è ufficialmente un archivio. E quindi abbiamo pensato che invece di fare il solito workshop di serigrafia in cui fai un disegnetto, di portare già noi delle grafiche che sono appunto delle riproduzioni di alcuni di questi manifesti storici. Ma bellissimo! Molto bello anche perché si creerà anche un po' quello spiazzamento nel vedere che alcuni manifesti sono veramente molto molto attuali, soprattutto quelli riguardanti la guerra, la Palestina. Ah certo! Molto bella questa cosa! Sì! E si potrà vedere questa mostra oltre al 30 per chi il 30 sfortunatamente avesse già un impegno. No, purtroppo no. No, cioè o si viene il 30 o cazzi tuoi o t'arrangi. Esatto. Hanno scosso la testa all'unisono. No, è terribile, sì, questa cosa. Cioè, ma uno può arrivare magari alla mattina di domenica? No, l'allestimento sarà all'incirca intorno alle 2. Sono 20 manifesti, corretto? Sulla ventina abbiamo fatto una stima. Ma e dopo dove vanno a finire, scusa? Tornano all'archivio. È che Split è uno spazio molto piccolino. Beh, ma non si potevano lasciare su magari anche fino a settimana dopo, no? No! No! Cioè, Chiara, no, cioè, vabbè. Chiara, mettila via. Non so se si è capito. Chiara, pat. Non puoi venire, punto. Non ci vengo però bisognare all'archivio. Ti perdi l'archivio. Mettitela via. E mettetevela via che io adesso faccio partire la pubblicità. Ciao. Coxo spaziale. È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa. Metto folle in discesa, non ho sonno né voglia di che valga la pena. Affondato senza avermi mai neanche sfiorato. Ma diamoci del tu. Dai, diamoci del tu. Se ti invitassi una sera, se ti invitassi a cena, ma se ti invitassi a casa, darsi una scusa. Se ti invitassi a casa, inventeresti una scusa. Sicuro avresti una scusa. Siamo stati a parlare un minuto, una vita. La gente intorno a ballare. La tua amica che urla, la sera è finita. E ti rigiri e vai via. E io sempre da solo, perché mi hai colpito affondato senza avermi mai neanche sparato. Ma diamoci del tu. Diamoci del tu. Dai. È un pezzo che è uscito. Diamoci del tu. Novembre è del nuovo singolo di Galileo, un brano che si muove tra desiderio, vulnerabilità e malinconia, sospinto dal calore di una chitarra avvolta nei riverberi. Quindi è la colonna sonora di un'emozione sospesa, di quell'attimo fragile in cui il cuore vorrebbe esporsi, ma la paura del rifiuto trattiene il passo. Diamoci del tu è un piccolo ritratto dell'amore incompiuto, di ciò che nasce e resta nell'aria senza mai diventare storia. Ringraziamo Maria di Per Press che ce l'ha mandato. Scusa, posso dirti una cosa? È bello avere paura. Se ti racconto la mia, inventeresti ancora un'altra scusa. Cosa stai combinando? No, attorno al microfono. Documenta giustamente questo momento storico, il momento in cui l'allieva ha superato il maestro, perché effettivamente devo dire Lisa Mignemi. Sto. Sì, no, ormai. Dai, guarda, che ogni volta che mi fai un complimento sempre, faccio una cagata. No, io lo faccio apposta. Perché sennò non è più coxo spaziale. Perché io non sono più miei studentesse. Però perché hai lasciato questa impronta. No, perché Alessia ha deciso di abbandonare grafica. Come? È successo. È successo. No. Ha fatto questa cosa. Cioè? E quindi? E quindi faccio illustrazione per l'editoria. Va a farla commercialista, cioè siamo sempre nel campo, no, veramente dai, vedrete. Troppo drammatico. Va, sì, l'hai messa giù dura proprio. Va bene. E dunque dobbiamo fare l'angolo della menzione o procediamo secondo con... secondo me cosa buona e giusta. L'angolo della menzione. L'angolo della menzione. Allora io vado subito con il primo dicembre, mi accaparro questo evento perché è il più corto. Perché è il più corto. Oggi è il primo dicembre, ad Alchemilla ci sono gli artisti marziali, un ciclo di incontri di box a parole a cura di Veronica Santi. Non stiamo a darvi info perché è tutto sold out. Comunque sapevatelo, www.alchemilla43.it. Magnifico. Ma perché è oggi la musica? Cosa vuoi? Perché oggi la musica di sottofondo ha le parole? Non dovrebbe avere le parole. Non lo so, domandalo a te stesso. Sei sgattaiolato di sopra. Che tape abbiamo là sotto? Tocca a te, vado io. Vabbè, non è vero, martedì 25 novembre, siamo qua. Sì. Alle ore 17. L'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita l'incontro de Traum Fabric Experience a cura di Fabiola Naldi, dedicato alla stagione di creatività selvaggia e ribellione estetica, vissuta tra le mura occupate di via Clavature 20 tra il 1976 e il 1983. All'incontro parteciperanno Mariuccia Casadio, Anna Gozzi, Gian Pietro Uber e Giorgio Lavagna. Tutto questo all'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna in via delle Belle Arti 54. Tocca a me? Tocca sì, a me. Vai tu. Un microfono dal 26 al 28 novembre. Dal 26 al 28 novembre, dalle 16 alle 19.30, la galleria, lo studio La Linea Verticale ospiterà un momento speciale dedicato all'opera Radici di Mohammed al-Ahyoui. Grazie. In questi tre giorni il pubblico sarà invitato a camminare sul tappeto effimero, diventando parte del processo di trasformazione che ne modificherà gradualmente la forma. Il 29 novembre, ultimo giorno di mostra, l'opera sarà presentata nella sua configurazione finale, segnata dai passi e dal tempo. Sarà un'occasione per osservare da vicino come il gesto collettivo possa incidere sulla materia, sulla memoria e sul senso dell'opera. Tutto questo allo studio La Linea Verticale in via dell'Oro 4B a Bologna. Un altro facile ce ne hai? Io? Mercoledì, ma guarda 26 il caso. Novembre, ore 19, a Marcord Quartet a Serendipo, 5C Lab, Vicolo dei Facchini, ingresso 5C, scusate, l'avevo già detto, ma è lì, ingresso con contributo libero, ti alzo gli applausi. Ed è già finito. E naturalmente gli Amarcord sono quelli di cui abbiamo sentito il poeta prima. Poi... questa te la regalo perché è una lettura molto semplice. Ah, ok. Mm-hmm. Mercoledì 26 novembre alle ore 22 Xing presenta a Raum Bologna Gritar No Caer di Francesco Fonassi, performance audiovisiva e presentazione della ricerca sul campo VHF Radio Expedition at la Zona del Silenzio, Durango, Messico 2025, parte di The Oracular Eavesdropper, uno dei progetti vincitori di Italian Council 13. Gritar No Caer, si dirà Caer o Saer, chi lo sa, è un paesaggio psichico che, chi sa lo spagnolo ce lo dica, è un paesaggio psichico che genera paradossi e fenomeni, un miraggio sonico e un proof of concept su elettromagnetismo e trasmissioni radio. Tutto questo a Xing Raum in via Casselvatica 4 a Bologna. Sempre giovedì. All'Aula Magna dell'Accademia delle Belle Arti, giovedì 27 sia alle 14. L'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la presentazione delle ultime ricerche di Mariella Guzzoni su Vincent Van Gogh, intitolata Van Gogh e il disegno, una passeggiata antimitologica. Mariella Guzzoni presenterà le sue ricerche sulla pratica artistica e le ispirazioni di Van Gogh con particolare attenzione ai suoi disegni, considerati dal pittore un linguaggio autonomo oltre che un mezzo preparatorio. Grande sperimentatore, lettore accanito e collezionista, Van Gogh non era però l'artista spontaneo e istintivo che ci hanno dipinto. All'Accademia che libro! All'Accademia di Belle Arti, in via delle Belle Arti 54, come prima. E sempre giovedì 27 novembre, dalle ore 17 alle ore 19.30, nella sala conferenze Mambo si tiene il seminario Traduzione come interrogazione tra poesia e filosofia, con al centro della sua riflessione l'importanza della traduzione filosofica e letteraria come pratica di interrogazione critica del canone e della cultura. Ospiti l'artista, poeta e traduttrice Alison Grimaldi Donahue, la poeta, traduttrice e docente Jennifer Scapettone, i filosofi docenti Giovanni Matteucci e Bruno Haas, la discussione moderata da Eleonora Caramelli, Diego Donna e Caterina Molteni. Sala conferenze Mambo, via Dominzoni 14, Bologna. Giovedì 27 novembre alle ore 18 Serendipo presenta Speed Date per professioni creative, un momento ibrido tra la balotta e il networking professionale per incontrare figure specifiche o semplicemente creare nuove relazioni e amicizie nell'ambito delle professioni creative. Amori no? No. Come in un classico speed date a rotazione, tutte e tutti parleranno con tutti e tutte. Ogni turno sarà di 7 minuti, a cui seguirà un aperitivo con castagne e vino rosso per continuare le chiacchiere iniziate durante il gioco. L'evento è pensato per chi si muove nei contesti arti visive, fotografia, video, performance, danza, teatro, musica, podcast, cinema, scrittura, copywriting, curatela, industrie creative e culturali, design, progettazione, grafico, web design, digital social media, Droppa comunicazione, illustrazione, fumetto, editoria, artigianato e più in generale a chiunque si identifichi in una professione creativa. Quindi potete iscrivervi tramite il link, il form che trovate su coxospaziale.blogspot.com, oppure mandando una mail a info.frat.tale@gmail.com presentandovi brevemente e indicando se volete quale figura vi piacerebbe incontrare all'evento. La quota di partecipazione è di ben 10 euro, ma che include l'aperitivo e va a sostenere le attività di Frat Tale e di Serendippo. Tutto questo abbiamo detto giovedì 27 dalle 18 a Serendippo al 5C Lab in vicolo dei Facchini 5C. Hai quasi superato Paolo Bonolis, hai quasi superato Eminem nella velocità di lettura. Back to reality. No, giovedì 27 dalle ore 18 alle 23 il Capanaun inaugura Sublimi incertezze, personali di Luca Moscariello. La sua ricerca sfida la percezione, attiva lo sguardo e accende la curiosità. Una pittura concettuale, rigorosa e di straordinaria potenza visiva, con la presentazione di Lorenzo Balbi e Marinella Paderni, al Capanaun, in via Imelde Lambertini 5 a San Lazzaro. Ah, così. Chi era Imelde Lambertini? Lo sappiamo? Non lo so. Ci guardiamo. Venerdì 28 novembre alle ore 19.30 a Marcord Big Band, al piccolo teatro di quartiere, in via dell'Arca 43F, apertura, tesseramento e convivialità, ore 19.30, live a seguire e ingresso con tessera Arci, Arci Gay, WISP, contributo artistico libero. E per maggiori info www.teatriindipendenti.it/guidallarca/amarcord. Venerdì 28 novembre dalle 19 alle 23 la gelateria Sogni di Ghiaccio continua la sua programmazione di ogni venerdì con la mostra di Giuseppe Urciolo intitolata Tieniti pure i tuoi segreti, una selezione di lavori pittorici accompagnata da un testo di Gioele Melandri e di Vincenzo Simone. Il suo lavoro indaga la pittura come gesto e presenza, le sue opere restano sospese, aperte, percorse da una tensione tra controllo e abbandono. Tutto questo alla gelateria Sogni di Ghiaccio in via Tanari Vecchia 5A a Bologna. E poi mi sono dimenticato una menzione, perché alla Otto Gallery, alla Otto Gallery, lo stesso artista del Capanaun, Luca Moscariello, fa un talk. Non mi ricordo a che ora. Perché me l'ha detto Coso e non me lo ricordo. Però magari domani sul blog lo troverete. Infatti. Vabbè, ti menziono stacco. Allora. Grazie. Prego. Poi domenica 30 novembre, non stava a me. Ah no? La mia. È tua, vieni. Alle 15, serigrafia contro la guerra, workshop a cura di Sprint, laboratorio popolare di serigrafia. Riprodurremo manifesti storici contro la devastazione dei territori, in solidarietà al popolo palestinese e per la liberazione di spazi sociali, le cui grafiche originali ci vengono messe a disposizione dall'archivio storico dei movimenti di via Avesella. Grazie al loro lavoro e alla loro cura nel recuperare e conservare materiale storico, verrà anche allestita una mostra di alcuni manifesti unici degli ultimi decenni del 1900. Immagini e parole ancora attuali che ci tornano come un eco dalla nostra stessa storia. Split, via San Giacomo 11 a Bologna. E ricordiamolo che o andate il 30 o non andate, o andate, ma non mai nulla di o tutto andate. Questo, cioè praticamente quindi tutti gli altri eventi che vado a leggere ora, sempre domenica 30 alle ore 17, non ci interessano, perché bisogna andare lì. Noi adesso ve li leggiamo, ma ovviamente, andate alle 15. Chiaro, no? Cioè, infatti non so neanche perché li hai messi in scaletta. Comunque, adesso no. Chi è che ci verrà a picchiare nelle prossime puntate? Domenica 30 novembre alle ore 17 per la rassegna teatrale musicale Spiel und Sing, nona stagione dell'Istituto di Cultura Germanica, Requiem per Mozart, con l'attore Dario Turrini e la soprano Atsuko Kozana, accompagnata da Matteo Matteuzzi al pianoforte. Ingresso ad offerta libera, Istituto di Cultura Germanica, in via De Marchi 4, Bologna. Veloce. E poi domenica 30 novembre alle 21 a Amarcord Quartet, stavolta al Teatro Storico di Villa Mazzacorati Aldorandi, in via Toscana 19. Alle 21, ingresso libero con prenotazioni dal 15 novembre e naturalmente trovate il link su coxospaziale.blogspot.com. Basta. E incredibilmente abbiamo finito, è quasi finito anche il programma, però io adesso, anche per par condicio, dovrei ridare la parola a Giovanni Gamberi, il quale ci spiegherà che, oltre a tutto quello che ci ha spiegato prima facendo l'ospite serio, anche lui si sporca le mani con l'arte contemporanea, di la vera, ammettilo. Davvero. Sì, no, io lavoro in una galleria d'arte, che è una galleria emergente, la curo da poco, quindi vediamo. È una galleria che parte adesso, quindi noi la presentiamo in prima assoluta. Si chiama Alto Gallery. È bellissimo questo nome. E si trova? In Piazzetta La Veneta. Piazzetta La Veneta. È vicino a casa mia. Sì, proprio dietro alla Cirenaica. È Cirenaica quella parte? Non so se è già Cirenaica. Io credo che è ancora San Donato quella, sì. Ci potete arrivare comodamente con la linea? Il 20. Ce l'abbiamo. Scendete alla fermata Sant'Egidio, Zanolini, la fermata Zanolini, potete arrivare anche in treno. No? Okay. C'è la linea Zanolini che va, non so dove si dirige quella, verso cosa est. Cosa succederà in questa galleria? In questa galleria, allora, adesso a dicembre, il 13 dicembre, ci sarà un aperitivo nell'arte. E in questo caso è un aperitivo nell'arte prenatalizio e introduciamo degli artisti che si stanno... Alcuni già sono già affermati, altri sono proprio all'inizio, quindi lavoreremo con le accademie per valorizzare questo spazio. Hai capito? E quindi uno il 13 dicembre viene e conosce la cosiddetta scuderia. Sì. Okay. Lo spazio che si allargherà fra poco, però... Magari ci mandi qualcosa, così nelle menzioni dell'8 dicembre ricordiamo questo appuntamento. E tu sei il direttore artistico, quindi esatto, colui che define, cioè, capito? Quindi, giovani aspiranti artisti, sappiate che dovete passare al vaglio di questo severo severissimo maestro che eventualmente dice no. Come sempre in tutte le gallerie, che si rispettino. Esatto, perché non si possono dire dei sì nelle gallerie, se che no, si rispettano. Non sarebbe una galleria. Ho capito. Bene. Sono il 20:52. Come vogliamo spendere questi abbiamo ultimi 3 minuti. Qualche, più o meno. Vuoi dichiarare qualcos'altro, ospite silenzioso? Ma posso dire che è tutto bellissimo. Ti avvicini. Tutto... ecco, no. È arrivato. Ti ho tirato il microfono in testa. Esatto. È trabattito. E purtroppo è andata così. Beh, oggi è il mio compleanno. Tanti auguri. Auguri. Come spendere meglio? No, è stata bella come esperienza. Soprattutto lo guarda che puoi dire di no, nel senso, puoi tornare poi in radio. Ma ci hai promesso che tu l'8 dicembre tornerai, esatto, e ci dirai che è il tuo compleanno di nuovo. Esatto. È il mio non compleanno. Non compleanno. Sì, altra cosa che, vabbè, era uno dei vizi di famiglia, festeggiare il non compleanno. Ah, cavolo, bello. Sì, oltre al cane di cui non ho parlato. Infatti, io ero appassionato. No, questa del cane è perché, vabbè, parlando di cultura cinese, io quando ero piccola mio padre mi raccontava che sotto al letto mio, dove dormivo, c'era un cane che però si manifestava solo quando io non c'ero. Quindi se io ero in camera lui non c'era. E quindi io non l'ho mai visto. Si chiamava Lao. Lao è un nome cinese. Lao poi come un cane filosofo, perché Lao Tzu è l'autore del Tao Te Ching, che è testo filosofico taoista. Chi ha avuto il privilegio di venire a vedere la mia mostra ormai conclusa ne sa qualcosa di più. E con questo silenzio totale. Io stavo pensando a quel buon tempone di tuo padre. Sì, festeggiavo il non compleanno e poi c'era il cane Lao. E poi c'era il cane Lao che però tu non potevi mai vedere. Mai vedere, ma che forse c'è ancora, non sappiamo esattamente. Chi lo sa? Io non l'ho mai sei visto. Sei qua, quindi sicuramente è là. Sicuramente sarà là. Certo. È sotto il letto quando tu non ci sei. Ho capito, molto bene. Non lo so, c'era Alessia e... Volete aggiungere? Degna, volete dire qualcos'altro rispetto alla giornata di domenica? C'è la merenda. Io non lo so cosa volete di più. C'è anche la merenda. Può essere. C'è anche da bere. Forse venite a scoprire se c'è la merenda. Allora venite così. Oppure se c'è la merenda. Portate qualcosa così. Una bottiglia la portiamo. Chiaro. Con la birra in 7, con la merenda in 30. Yes. E merenda molto più birra. Bellissimo, proprio... mamma mia, aperitivo. Era quello che dicevo. Facciamo direttamente Camparino, siamo a posto. Fatta. Perfetto. E io. Bene. Direi molto bene. E dunque tutti in via, com'è che si chiama? San Giacomo. San Giacomo 11. e l'11 l'avete scritto voi a mano. Esatto. Ok, il momento è serio. Il momento è serio. No, intanto anziché salutarci adesso con io no, intanto ringraziamo tutti i nostri ospiti che sono grazie ospiti tutti. Vediamo se ti ricordi tutti i nomi. Aspetta, io ci sono scritti qua, è facile. Ah, sì. Aspetta, sono preparata. Delia, Giovanni. Allora, Alessia Prosdocimo, Delia Armenise e Giovanni Gamberi. Più Gabru. Che però torna all'otto, come vero. Con anche il cognome. Esatto. Non perdete la puntata dell'otto. Absolutely. Ci saranno degli ospiti di eccezione e scopriremo cose importanti per la nostra città, vero Gabru? Esatto. Grande. Nel bene e nel male. Io sono curiosa adesso. Io ero Chiara Pergola oggi. Io ero Lisa Minemi. Io ero Stefano W. Pasquini. E tu adesso chi vuoi essere? E io che cazzo? E Cinzia Corda. Che cosa ci salutiamo? Ci salutiamo con un piccolo omaggio alla nostra cara Ornella che ci ha lasciati. Mm-hmm. Questo è quello che possiamo fare. Non abbiamo voluto insomma portare le solite canzoni tristi e quant'altro. Abbiamo voluto portare una canzone che sia più che altro un inno all'autenticità. E quindi vi lasciamo con Ti voglio di Ornella Vanoni, un pezzo del 77. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao Ornella. Ti voglio, mi piace, mi spoglio dei mille problemi che c'erano in me. Mi piace, immagini, baci, cosa importa voler sapere domani cos'è. Mi tocchi, si chiudono gli occhi, sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te. Balbetti, aspetti una mossa l'ho da me. Dillo ancora. Coraggio, mettiamoci in viaggio e vadiamo da questo parcheggio di mille perché. C'erano in me. Ti voglio, mi piace, mi spoglio. Dillo ancora che ti piace. Mi piace, immagino i baci. Cosa importa volere sapere domani cos'è. baby.